essere geloso di quello che sono diventato. Prima di parlare, vai a vedere il mio passato. Sono il boss del mio quartiere, il boss del mio quartiere, sono il boss del mio quartiere, il boss del mio quartiere, sono il boss del mio quartiere, il boss del mio quartiere, sono il boss del mio quartiere, il boss del mio quartiere, sono il boss del mio quartiere, le persone mi temono per il mio mestiere, in quanto terrore al mio passare, sono il più cattivo criminale, per colpa di qualcuno, sono finito dentro, in un posto che non definirei stupendo. Ne potevo uscire dopo due giorni, ma per colpa dell'infame ne ho passati molti. La chiami giustizia questa, chi lo sa? Ora che sono fuori vi rovino a tutti, così sarà. Pensi di avermi messo una gabbia per punizione? Mi sa che non sai con chi hai che fare, coglione. Il carcere è un posto per uomini, così mi dicevano. Il carcere ti serve per cambiare, così mi parlavano. Vaffanculo, mi dicevano ste cose a presa di culo. Non faccio la vittima chiedendo giustizia, non faccio la vittima sperando nella libertà. Ma stai tranquillo che ci passerai anche tu, fra. Comando un quartiere, spacciandolo per mestiere. Non mi provocare, potresti farmi incazzare. Stai attento fra te, non avere debiti con me. La gente mi conosce come un bravo ragazzo, ma sai che ti dico, attaccativi al... Sono il boss del mio quartiere, il boss del mio quartiere, sono il boss del mio quartiere, il boss del mio quartiere, sono il boss del mio quartiere, il boss del mio quartiere, sono il boss del mio quartiere, il boss del mio quartiere. A questo punto vi dovrei parlare della mia vita, ma una storia lunga, dura e infinita. Sono cresciuto in mezzo ai delinquenti, loro lo fanno per lavoro, stando molto attenti. Quando ero ragazzino lo prendevo come se fosse un gioco. Ora che non sono più un ragazzino, comando io il gioco. Vedo troppa gelosia tra la gente, accecati dall'invidia che hanno in mente. Quando entra la madama fatti il segno della croce, perché potresti avere un destino atroce. Loro sperano di trovarti la cocaina, mandando la tua vita in rovina. Il mio quartiere è come una tela di ragno, dove tutti i delinquenti vengono a cercare guadagno. Se non mi credi, vieni a fare un giro nel mio quartiere, così capisci cosa vuol dire fare il mio mestiere. Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscere la differenza.